24 mattino di Alessandro Milan. Le 7 e 18 minuti, eccoci cari ascoltatori, chiudiamo la settimana il venerdì di 24 mattino in diretta fino alle 9, anche con Paolo Corleoni in regia, che forse rimarrà anche settimana prossima, non si sa. No, fa ampi cenni con la mano a dire no, come dire, non mi beccate più a quest'ora. Molto bene, allora di cosa parliamo oggi nel nostro sondaggio? Parliamo, beh, di quello che, come ha scritto ieri il Sole 24 Ore, ieri ne hanno parlato anche a Salvadanaio, il fisco che scrive ai contribuenti: cari cittadini, voi avete speso di più di quanto il vostro reddito potrebbe permettervi. E allora, che ne pensate di questo atteggiamento dell'Agenzia delle Entrate? È giusto, perché bisogna contrastare l'evasione fiscale, oppure è un metodo vessatorio? Ne parleremo alle 8.30 nel nostro Bianco o Nero. Ci sarà anche il grande Oscar Giannino qui al nostro fianco per parlarne. Voi votate su radio24.it ed ora andiamo a vedere i giornali in edicola. In primo piano, venerdì 10 giugno. Vediamo le aperture dei quotidiani. Il Sole 24 Ore si concentra sul centro studi Confindustria Italia, produzione ferma, questo è il titolo di apertura. Marcegaglia: giorni, convocherò i sindacati sulla rappresentanza. Sulla riforma fiscale annunciata titolano il Corriere della Sera: riforma fiscale entro l'estate, l'impegno di Berlusconi, nuovo fisco entro l'estate, così apre La Stampa. Il Messaggero: Berlusconi accelera sul fisco. Per Il Riformista invece è tradotto così: solo fumo, disinformazia. Sui referendum, allora, Berlusconi: non voto al referendum, così apre Repubblica. L'imbroglio referendum è il titolo del giornale, mentre per Libero: meglio non votare, facciamo saltare i referendum. Per L'Unità c'è la foto di uno striscione molto singolare, una militanza creativa, una ragazza che ha scritto questo e ha appeso questo striscione su un ponte: Ciccio, il 12-13 giugno se non voti ti lascio. E creativa anche la prima pagina del Manifesto, che mette una donna a seno nudo in topless dal titolo Corsa nuda per il quorum, vota sì, e sopra questa, il titolo, questa foto di una donna nuda, lo dice anche il Papa. Beh, l'accostamento è certo singolare. Dopo anno zero distruggono Rai 3, così titola in prima pagina il Fatto Quotidiano in apertura, mentre Avvenire apre sul caso Battisti, ingiustizia da sanare. Allora, le due segnalazioni da cui voglio partire: la prima riguarda la scuola, perché trova spazio su vari quotidiani, La Stampa ci dedica mezza pagina, ma anche su Libero a pagina 20. Il premio ai migliori prof è un tema che abbiamo già visto in passato, uno stipendio in più, così titola La Stampa. È il progetto Valorizza, il ministro dell'istruzione Gelmini ha fatto sapere che 276 sono gli insegnanti italiani che sono stati beneficiati di uno stipendio in più. È una delle sperimentazioni avviate a febbraio per introdurre in Italia la valutazione di scuole e docenti dopo il fallimento del primo tentativo. Ebbene, valorizzato il merito, dice il ministro. C'è qualche critica da parte dei sindacati, soprattutto la CGIL Scuola è molto critica, luce ed ombre anche per la UIL, dice il segretario generale Massimo Di Menna. Sta di fatto che sono 276 gli insegnanti che hanno vinto questo progetto sperimentale. La Stampa racconta tra l'altro la storia di due scuole a Torino. A Torino, al circolo didattico di Pavone Canavese, in provincia di Torino, per la verità, hanno deciso con il preside che il premio ottenuto andrà alla scuola, e dunque l'idea è stata quella di partecipare. Hanno partecipato 58 insegnanti per cercare di arricchire un pochino la scuola con queste entrate, e poi tutto verrà destinato appunto alla scuola stessa. Mentre viene raccontata anche la storia della scuola di Scampia. Sei premi sono stati assegnati a Scampia, maestri e maestre dell'87° circolo didattico Don Guanella hanno partecipato in 19, racconta la dirigente scolastica Silvana Quadrini. Anche su Libero: un mese di paga in più per 276 prof bravi, la scuola del merito che zittisce la sinistra, questo è il titolo di Libero. Beh, insomma, è un tema che fa certamente discutere, di cui abbiamo anche già parlato. La seconda segnalazione la troviamo in prima pagina su sul Messaggero, è una notizia nel suo settore un pochino clamorosa, perché c'era stata anche una premessa, vale a dire la cittadinanza di Roma onoraria al maestro Riccardo Muti. Beh, nel primo tentativo il Consiglio Comunale ha fallito miseramente perché è mancato il numero legale. E allora non si sa se è legato a questo fatto, non si sa se Riccardo Muti se la sia un pochino legata al dito, non si sa se il grande maestro ci abbia pensato su, sta di fatto che Riccardo Muti ha fatto il gesto del gran rifiuto. Cittadino di Roma, Muti, no, grazie. In prima pagina del Messaggero Riccardo Muti ringrazia il sindaco di Roma Gianni Alemanno, ma dice di no, grazie, no. Prima che cominci la discussione in Campidoglio sul conferimento al maestro della cittadinanza onoraria, Alemanno riceve un telegramma fax con preghiera di consegna immediata in cui il grande direttore dell'orchestra declina l'offerta di diventare civis romanus. Lo fa perché giudica francamente spiacevole la bagarre scatenata su un argomento che si presume debba invece essere occasione di gioia. Il maestro Muti comunque dice: ribadisco il proprio impegno, il mio impegno per e con l'opera di Roma. Poi viene anche intervistato da Rita Sala, il gran rifiuto di Muti, questo è il titolo per la cittadinanza onoraria. Non posso dividermi più di tanto nel mio lavoro, ma per quel che riguarda la cittadinanza romana, ho detto il mio no da qui, da Salisburgo, dalla quiete di Salisburgo, comunque impregnata di italianità e di napoletanità. Gli echi che mi sono arrivati da Roma sulla questione li ho trovati patetici e desolanti. Non ho voluto che tutto annegasse in una dimensione del genere. Mi ha fatto sorridere una suggestione di idee. La vicenda della cittadinanza fa il paio con l'incredibile storia della laurea honoris causa conferitami diversi anni fa dall'Università Roma La Sapienza. Andai a Roma con la filarmonica Scaligera, feci il concerto di rito nell'aula magna dell'Ateneo, ma l'evento fu funestato da una diatriba sorta per questioni interne tra gli studenti e il rettore. L'aula magna traboccava di giovani, fu un bellissimo concerto, poi ripartii subito per Milano dove dirigevo il Fidelio. Fu l'agitazione imprevista probabilmente ad impedire alla Sapienza di portare a termine la cerimonia della consegna, che venne rimandata. Insomma, Riccardo Muti dice: mi ha ricordato questa vicenda, ringrazio Alemanno, ma il gran rifiuto è questo, no alla cittadinanza onoraria di Roma da parte del maestro Muti. Cari cittadini romani, beccatevi questa. In primo piano. Alle 7.33 minuti, la notizia politica del giorno più sviluppata dai giornali certamente è l'annuncio della riforma fiscale fatto ieri dal premier Berlusconi. Allora, questo all'indomani di quei retroscena che ieri vedevamo, che parlavano di fibrillazione, tensioni, anche parole grosse volate tra il premier e Giulio Tremonti. Intanto il Secolo XIX continua insomma con questa linea, a pagina 5 Giulio ironizza: gli annunci, quelli non costano nulla. Questo avrebbe detto Giulio Tremonti su questa manovra. Di fatto ci si è accordati tra Berlusconi e Tremonti per una manovra complessiva che sarà di 40 miliardi spalmata in 3 anni, 3 quest'anno, 7 il prossimo, 15 nel 2013, altri 15 nel 2014, dunque spalmati in 4 anni. Allora, la riforma fiscale prima dell'estate, titola così il Sole 24 Ore con Dino Pesole a pagina 5, scrive però anche il Sole: incontro teso Berlusconi-Tremonti, questo prima del Consiglio dei Ministri e prima della conferenza stampa di Berlusconi, che poi si è presentata appunto in conferenza stampa e ha annunciato la manovra per centrare il pareggio di bilancio nel 2014, che sarà approvata entro fine giugno, probabilmente il 23. Varo della legge delega sulla riforma fiscale prima della pausa estiva, dunque entro fine luglio, anche questo ha annunciato il Premier. In circa un'ora di confronto, che dalle indiscrezioni circolate viene definito civile ma alquanto acceso e animato, il presidente del Consiglio Berlusconi e il ministro Tremonti hanno sostanzialmente concordato il percorso che dovrebbe, nella intenzione di entrambi, porre fine al braccio di ferro sulla riforma fiscale al centro del confronto politico. Così scrive Dino Pesole. Il dato di fatto è dunque questo: l'annuncio di Berlusconi. Anche per il Corriere, vista così, il ministro incassa il sì alla manovra, non ci saranno lacrime e sangue. La versione ufficiale con il Cavaliere e Bossi, niente litigi. Che cosa si deve trovare subito? E questi sono i 3 miliardi per il 2011. Beh, si devono trovare i soldi per finanziare le missioni di pace all'estero, coperte fino al 30 giugno, il nuovo impegno in Libia, altre piccole esigenze, poco più di 3 miliardi appunto per 6 mesi, che ne valgono 6 o 7 per l'intero 2012, così scrive Mario Sensini sul Corriere. Tra l'altro 2012 sarà anno elettorale, nel quale non sono in programma altri interventi. La vera manovra sarà appunto nel 2013, quando bisognerà trovare 15-20 miliardi per correggere il deficit, e nel 2014, quando ne serviranno altrettanti per arrivare al pareggio di bilancio. Secondo le prime stime, solo dalla sanità potrà arrivare circa un terzo delle risorse necessarie per il pareggio. Con i costi standard in vigore, la sforbiciata alla spesa sanitaria tendenziale sarà tutti gli effetti, come dicono al Tesoro, un taglio degli sprechi. E poi ci sarà anche l'intervento sul pubblico impiego, l'altro settore sul quale sicuramente si interverrà, anche se sarà politicamente più difficile, scrive il Corriere della Sera. Sta di fatto allora che questo è l'annuncio. Certo, i retroscena continuano, non è che, come è detto anche sul Sole, c'è scritto in controteso, qualcuno ha visto nel Consiglio dei Ministri che è iniziato un 40 minuti di ritardo perché si vedevano un Berlusconi e Tremonti un po' gesticolanti. Il dato di fatto è che tutti sono concentrati, come scrive anche oggi il Foglio, questa è la chiave della legislatura, cioè i rapporti che ci sono tra Berlusconi e Tremonti. Il Foglio, eccolo qua, lo scrive: 45 minuti di confronto da soli, il ministro e il premier, andati abbastanza male, così vengono definiti questi 45 minuti dal Foglio. Poi un consiglio dei ministri con Tremonti silente e pensoso. Infine un loquace Silvio Berlusconi in conferenza stampa che annuncia la manovra del 2011 di 3 miliardi. Sta di fatto che per il Foglio, scrive Salvatore Merlo, che è il notista politico del quotidiano di Giuliano Ferrara, l'idea di licenziare Tremonti è un'idea non possibile. La sensazione all'interno della maggioranza e entourage di Berlusconi, secondo il Foglio, per qualcuno è che la speranza unica sono le dimissioni volontarie di Tremonti, ma non tira questa aria. Insomma, i rapporti rimangono tesi. Ieri Libero raccontava di questo sfogo: tu mi hai fatto spiare e messo alle calcagna mie i servizi segreti, avrebbe detto Tremonti a Berlusconi, un'accusa gravissima. Oggi il Foglio, oggi Libero un pochino sfuma, però fa notare Salvatore Dama, pagina 4, un Berlusconi che comunque torna a dire: non possiamo fare quello che chiedi, rischiamo problemi con le agenzie di rating o con le istituzioni europee. Questo avrebbe detto Tremonti a Berlusconi in questo pre-colloquio prima del Consiglio dei Ministri. E Libero dice anche questa frase di Tremonti, che avrebbe detto a Berlusconi: io per te non mi sputtano con le cancellerie di mezzo mondo. E, insomma, nonostante ciò, anzi no, questo l'ha detto Berlusconi a Tremonti, nonostante ciò Giulio Tremonti, dice Libero, non ne vuole sapere, va dritto per la sua strada, un caterpillar, e sulla questione del rigore. Insomma, i rapporti anche per Repubblica, Claudio Tito è un fragile compromesso tra Tremonti e Silvio, questo rimane di tensione. Anche Ugo Magri, così vediamo tutti i notisti, diciamo, i retroscenisti più importanti dei giornali. E sulla Stampa Ugo Magri: nessuna lite, ma il cavaliere alla fine deve ingoiare amaro, parla di ordinaria manutenzione, però l'operazione resta severa. Vabbè, sulla Stampa c'è anche Iena, che da un po' di tempo non leggo, oggi molto tagliente. Tizi, questo è il titolo: l'ultima barzelletta di Berlusconi è esilarante, parla di un tizio che voleva riformare il fisco. Allora, come detto, sullo sfondo di questo annuncio di riforma fiscale, di tensioni, fibrillazioni o tensioni ricomposte, vedetela come volete, tra Berlusconi e Tremonti, non viene certo come una notizia positiva quello che oggi il Sole 24 Ore mette in prima pagina. Tra l'altro, voglio annunciare, il Sole 24 Ore oggi fornisce gratuitamente una guida molto interessante sul risparmio, contro l'inflazione, insomma, come risparmiare, come investire, titoli di Stato, obbligazioni, risparmi postali, pronti conto termine, insomma tutte le modalità del risparmio, tutte le strategie per limitare i rischi, le trovate in allegato in una guida pratica e gratuita con il Sole 24 Ore di oggi. Ecco, dicevo, non è certo una buona notizia quella che il Sole 24 Ore mette in prima pagina, che poi è l'elaborazione del Centro Studi Confindustria. Italia, produzione ferma. Questo è il titolo di apertura di prima pagina. La produzione italiana è ferma, confermarlo il rapporto del Centro Studi Confindustria. Negli ultimi 3 anni addirittura calata del 17%. Il risultato è l'Italia è stata superata ormai anche da India e Corea ed è scesa dal 5° al 7° posto nella classifica mondiale della produzione. Soprattutto c'è tutta poi l'analisi dei dati a pagina 2. Il ruolo del manifatturiero è calato molto. In questo quadro generale colpisce proprio, scrive Carmine Fotina, la scarsa consapevolezza di questo ruolo cruciale del manifatturiero, da cui proviene quasi l'80% degli incassi ottenuti dalle esportazioni. E tra l'altro c'è l'appello del presidente di Confindustria Marcegaglia, pagina 3, l'invito alla convocazione dei sindacati. Rappresentanza, convoco i sindacati, questo è l'annuncio. A giorni chiameremo i sindacati per discutere una proposta sulla rappresentanza, sulla cosiddetta esigibilità dei contratti. Questo è l'annuncio fatto ieri proprio a margine della presentazione del Centro Studi Confindustria dal presidente Emma Marcegaglia. L'altra notizia politica, beh, ancora, che trova molto sviluppo sui giornali, come detto, è quella del referendum. Abbiamo visto anche qualche apertura, qualcuna magari un po' quasi dissacrante, no? Il Manifesto, come detto, mette una donna seminuda in topless, corsa nuda per il quorum, e il titolo sopra del Manifesto è "Lo dice anche il Papa". Perché addirittura il Manifesto la mette così: Benedetto XVI affossa il nucleare, gli stati devono affidarsi a energie pulite senza pericoli per l'uomo, tanto che il giornale in qualche modo in un titolo a distanza risponde: il fronte del sì senza vergogna, arruola il Papa come testimonial. Effettivamente ieri Benedetto XVI ha detto che bisogna rispettare l'uomo e la natura anche nello studio dell'energia. Tutti i giornali fanno notare comunque la coincidenza che è da sottolineare, cioè il fatto anche il Corriere dice: il Papa è l'energia pulita e senza pericoli, si pensi a Fukushima, ha detto Papa Benedetto XVI. Insomma, una frase che specie a 3 giorni dal referendum non poteva passare inosservata, soprattutto l'accenno alla questione del nucleare. Ma certo, insomma, qualche giornale, soprattutto qualche giornale non sempre vicino alle posizioni del Papa, per usare un eufemismo, ora, se fosse un'istituzione, un capo di Stato, si dovrebbe dire si tira per la giacchetta, non so, per l'abito sacro, come si chiama l'abito del Papa, non lo so, confesso la mia ignoranza in questo, però qualcuno cerca di tirare il Papa dalla sua parte anche per arruolarlo nella campagna referendaria. Sta di fatto che il Sole 24 Ore oggi si concentra sui quesiti legati all'acqua nelle pagine didascaliche che da un qualche giorno ci sono per i referendum. Oggi ci si concentra sul tema la privatizzazione dell'acqua, quello della scheda rossa, cosa si prevedono i sì e i no, eccetera. Tra l'altro oggi Oscar Giannino, anche lui, dedicherà alle 9 la seconda puntata. Oggi sarà lui guest star, risponderà a tutti gli ascoltatori sui perché del voto, di come votare. Questa è la sua posizione alle 9. C'è molto sui referendum, beh, molti si concentrano sul fatto dell'annuncio anche qui del presidente del Consiglio Berlusconi, che ha annunciato "non andrò a votare". Bersani ha risposto: beh, andranno a votare gli italiani, non importa se non andrà a votare lui. C'è sempre il giallo del voto all'estero. E per quel che riguarda il nucleare, registro 2 interviste, vi segnalo: una a Umberto Veronesi sul Corriere della Sera, pagina 9, finora non ha mai parlato su questo tema, sui referendum, lui che è uomo di sinistra, arruolato nel Partito Democratico, poi quando è diventato presidente dell'Agenzia per il Nucleare si è dimesso dal Senato perché è incompatibile la sua posizione. Andrà a votare? Questa è la domanda di Mario Pappagallo. Sono incerto, sono perplesso, per solidarietà con gran parte del mondo della ricerca che non voterà come forma di protesta. Dice Veronesi: il nucleare non è né di destra né di sinistra e questo referendum avverrà in un clima in cui l'espressione del pensiero dei cittadini rischia di essere in parte viziata. Risponde idealmente un altro scienziato, il premio Nobel Carlo Rubbia, intervistato da Repubblica, da Antonio Cianciullo A pagina 6, l'atomo è troppo costoso, questa è la domanda da farsi, dice Rubbia, quanti soldi ci vogliono e chi li mette? Si dice che una centrale nucleare costa 4-5 miliardi di euro, ma senza calcolare gli oneri a monte, a valle, cioè le spese necessarie per l'arricchimento del combustibile, la creazione di un deposito geologico per le scorie radioattive, come quello che gli americani hanno cercato di fare senza riuscirci, ma spendendo 7 miliardi di dollari a Yucca Mountain. E poi Rubbia dice anche: lezione di Fukushima, è stata una lezione, è pericoloso non imparare dalle lezioni. Dico per esempio, visto che anche a Messina ci fu uno tsunami nel 1908, visto che anche l'Italia come il Giappone è un paese sismico, è ragionevole pensare a una centrale atomica in Sicilia? Questo Carlo Rubbia su Repubblica. In primo piano. Oh, un ascoltatore ci fa sapere via SMS che l'abito del Papa è la tunica. Io lo riferisco così a voi, mi fido dell'ascoltatore, cioè, potrebbe essere la tunica. Quindi tirare il Papa per la tunica, per quella questione dei referendum. Tra l'altro referendum, oggi registro anche che c'è il primo editoriale di Sul Giornale di Vittorio Feltri sul tema referendum. Quindi Vittorio Feltri è ufficialmente tornato al giornale. Oh, la TV ancora... prende tante pagine di giornali per due temi. Santoro che ha preso tutti un po' in contropiede, cioè ha detto guardate che io potrei tornare a collaborare con la RAI anche da domani, e anzi ha detto al presidente della RAI Garimberti, volete questa trasmissione? La faccio anche per un euro a puntata, anche a partire da settembre. Tanto che addirittura, guardate un retroscena che c'è su Repubblica abbastanza clamoroso di Goffredo De Marchis a pagina 9. L'offensiva del Premier per far saltare la LEI. Lei è il direttore generale della RAI che da un mese ha sostituito Masi. Cioè, secondo Repubblica, Santoro fuori dalle scatole non basta. Silvio Berlusconi sceglie la strada della spallata a Viale Mazzini, vuole mandare a gambe all'aria l'azienda, vuole anche mandare via Lorenza LEI. Il direttore generale deve saltare, chi se ne importa se è lì da appena un mese. Quale sarebbe la colpa di Lorenza LEI? Beh, aver mandato via Santoro, ma sbagliando, perché doveva fargli firmare la clausola di non concorrenza, cioè impedire a Santoro di andare, che ne so, in onda sulla 7, oppure di collaborare, come avrebbe adombrato Santoro come ipotesi addirittura, con la RAI. Insomma, secondo questo retroscena di Repubblica, ora Berlusconi vorrebbe proprio cambiare il direttore generale della RAI, paralizzare l'azienda. Infatti cosa sta succedendo? Da qualche giorno il consiglio di amministrazione della RAI non si riesce a riunire perché manca il numero legale, mancano i consiglieri di amministrazione vicini al centrodestra, non si presentano, e sono giorni decisivi per approvare i palinsesti della prossima stagione. Bufera RAI, la maggioranza blocca il CDA sui palinsesti, così titola Marco Mele sul Sole 24 Ore, l'articolo di Marco Mele a pagina 21, il presidente Garimberti e il direttore generale LEI insistono per il via libera, ma Verro, che è un consigliere di amministrazione del centrodestra, RAI 3 enclave separata, cioè secondo il Fatto Quotidiano, addirittura con Carlo Tecce, sono proprio ordini telefonici partiti da Berlusconi ai consiglieri di amministrazione di vicini al centrodestra, il primo Antonio Verro, a dire non presentatevi al consiglio di amministrazione, bloccate con questo il rinnovo dei palinsesti, insomma paralizzate la RAI, in modo da, l'obiettivo, questo secondo retroscena del Fatto, far fuori anche Giovanni Floris, Fabio Fazio, Milena Gabanelli, insomma, perché se non si rinnovano i palinsesti dei contratti, a un certo punto si arriva a un punto di stallo grave. Vabbè, questo per quel che riguarda la RAI. C'è molto di Cesare Battisti ancora, vi voglio segnalare dal giornale un'interessante posizione di Mario Cervi. Lo scandalo Battisti, dice, ma in realtà siamo sicuri di poter buttare la croce addosso al Brasile, scrive Mario Cervi, senza riconoscere con un serio esame di coscienza che alla commedia ipocrita dei benintenzionati cultori della P38 anche noi italiani abbiamo partecipato con slancio. E fa un esempio Mario Cervi, quello di Sergio Segio, condannato all'ergastolo per l'uccisione di due magistrati, naturalmente è libero, ha trovato occupazione nella CGIL dietro una scrivania e presentando un rapporto sui diritti globali del 2011 ha sentenziato che il governo italiano sta facendo macelleria sociale. Può dare lezioni al Brasile in tema di terrorismo e valutazione del terrorismo l'Italia, dove circolano tranquillamente, avendo scontato una pena a volte vergognosamente inadeguata, gli specialisti di una macelleria non sociale ma reale, nel significato più letterale e brutale del termine? Ecco, così si chiede Mario Cerve. Ci sono le foto di Sergio Seggio, Toni Negri, Franco Piperno, Oreste Scalzone, Adriano Sofri, Silvia Baraldini. Insomma, ma è l'Italia la prima a essere indulgente con i cattivi maestri? Così Mario Cerve a dire: il Brasile ci ha offeso, ma anche noi non abbiamo la coscienza pulita contro il terrorismo. Vorrei andare alle segnalazioni conclusive. Beh, visto che abbiamo citato Vasco Rossi, Jovanotti, insomma un po' di rocker, voglio segnalare quello che Rinaldo Gianola, che è il vice direttore dell'Unità, mette a pagina 37 dell'Unità, per l'appunto. Caro Vasco, dacci una mano. È la lettera appello un po' disperata degli operai della Vinyls di Marghera, indirizzata a Vasco Rossi, che domani canterà in grande spiazzo a Mestre. E gli operai hanno pensato di chiedergli un aiuto, con garbo, parole semplici. Caro Vasco, ci piacerebbe raccontarti la nostra storia sofferente, cioè l'angoscia di perdere il lavoro. Siamo riusciti a incontrare anche il Papa, abbiamo avuto promesse dal ministro Romani che sono divenute granelli di sabbia. E insomma, fraterni saluti al miglior poeta rock italiano dagli operai Vinyls, così si conclude la lettera, indirizzata e scritta a mano e che l'Unità ripropone a pagina 37. Racconta Rinaldo Gianola: non è la prima volta, insomma, che quando i lavoratori un po' disperati, per esempio i lavoratori della Yamaha di Gerno, di Lesmo, qualche anno fa scrissero a Valentino Rossi, che appunto era della Yamaha, oppure le donne dell'OMSA di Faenza hanno messo in piedi le brigate teatrali con l'aiuto del Teatro Due Mondi, insomma iniziative anche per cercare di raccogliere l'interesse dell'opinione pubblica, oggi raccontata da Rinaldo Gianola sull'Unità. 24 mattino, l'intervista. Ben ritrovati da Alessandro Milan alle 8:20. Voglio salutare per la nostra intervista Gianni Rivera. Buongiorno Rivera e benvenuto. Buongiorno a voi. Gianni Rivera presiede il settore giovanile scolastico della FIGC, la federazione calcistica, poi insomma grande ex campione di calcio. Senta, che idea si è fatta di questa inchiesta calcio scommesse? Sono poche persone oppure il calcio, se leggiamo dai giornali, è un sistema malato? Io prima di mettere la parola fine aspetterei che la magistratura, sia quella ordinaria che quella calcistica, dicano la parola fine, perché si è visto già anche nel passato che in queste situazioni viene fuori molta polvere e poi spesso c'è poco da guardare dietro la polvere, quindi aspettiamo. Certamente qualcosa di negativo è successo e non è che faccia piacere scoprirlo, però... Bisogna aspettare. Però si dice, e qualcuno dice, anche ai suoi tempi, ricordiamo il 1980, il primo grande scandalo, anche con grandissimi campioni coinvolti, allora dobbiamo pensare che è tutto uguale? La limitatezza e la corruttibilità non sta nei nomi, nel fatto se uno è famoso o no. Se uno è debole cade negli errori, quindi l'uomo è debole per quello che è, non per quello che fa. Ci si chiede perché ragazzi, è la domanda che si fanno sempre, perché ragazzi che guadagnano magari nelle serie minori anche 10, 15, 20 mila euro al mese finiscano poi in questi giri, cioè è una questione proprio soggettiva di persone deboli. Torniamo al discorso dell'uomo, l'uomo è debole, l'uomo ha capito, abbiamo costruito una società materialista che pensa solo al denaro come punto d'arrivo e di partenza contemporaneamente e quindi si punta ad averne sempre di più, non ci si accontenta delle cose che si possono ottenere e poi si può cadere in rapporti con persone che dopo ti ricattano, insomma sono tante le motivazioni. Tanti fattori. Senta, uno degli indagati, un giocatore Quadrini, dice che la federazione sapeva da un paio di mesi, aveva già denunciato. Lei ha anche un ruolo federale, insomma... Ma non è che in federazione abbiamo tutti accesso agli uffici della Procura federale. La Procura federale è uno dei tanti uffici della federazione, se così è stato. A me sembra strano che sia arrivata una denuncia alla Procura federale e non ci sia stato nessuno che si sia mosso. Perché l'accusa è grave, insomma, se fosse... Dubito molto di questo fatto, perché può darsi che abbiano sbagliato ufficio, chi lo sa, credo che sarà fatta la giusta indagine per capire dove è andata a finire questa denuncia, chi l'ha fatta, quando l'ha fatta e a chi l'ha fatta, quindi aspettiamo anche lì di sapere dove sta la verità. Aspettiamo anche lì. Senta, un'ultima cosa che le voglio chiedere è la questione del caso Cesare Battisti, che è stato buttato nel tema calcio anche in questo caso. Se si è posto il problema, boicottare o no i mondiali in Brasile nel 2014. Lei che di mondiali ne ha fatti, lei che è stato un grande campione. Intanto bisognerebbe arrivarci. Sì, certo, prima bisogna qualificarsi, certo. Ecco, prima ci qualifichiamo e poi lo stabiliamo che però, cosa fare. Però che ne pensa? C'è un'ipotesi fattibile? Ma non lo so, tutto è fattibile, adesso poi bisogna vedere, credo che bisogna andare a capire perché il Brasile ha avuto questo atteggiamento nei nostri confronti, non so se ha funzionato poco la diplomazia del Ministero degli Esteri e probabilmente anche del governo, non lo so, perché mi sembra strana una scelta di questo genere, anche perché era abbastanza evidente che non era un gesto politico, che anche lì c'era da discutere sulla scelta del Brasile, però insomma qui era chiaro che non era una cosa politica. Però bisogna capire se coinvolgere il calcio è come quando ci sono le Olimpiadi, si dice si boicottino le Olimpiadi, certo, non sì, si capisce. No, questo più. È vero, io non è una cosa, non vorrei che poi per fare qualche ritorsione nei confronti del Brasile ci facciamo del male da soli, quindi è meglio aspettare di capire cosa è giusto fare. Intanto parlare di una cosa che non è neanche ancora certa oggi è perfettamente inutile. Intanto io la ringrazio, buona giornata, per essere stato, grazie per essere voi, stato con noi. Giornata. Gianni Rivera, voglio ricordare, il presidente del settore giovanile scolastico della FIGC. Allora, noi dobbiamo andare in pubblicità e meteo, poi parliamo di fisco. Abbiamo Oscar Giannino qua. Oscar, buongiorno. Buongiorno. Prima a tutti. Però ti devo chiedere una cosa, perché io ho lanciato in rassegna stampa. Immagino, contro la società materialista. Ma no, una cosa più banale. Ma tu sei onnisciente, quindi mi devi aiutare. Io ho lanciato questa cosa in rassegna stampa, che non sapevo come si dice del Papa, l'equivalente di tirare per la giacchetta il capo dello Stato, tirare per l'abito. Allora, mi hanno detto che è la tunica, qualcuno dice la tonaca mi sembra più da prevosto, insomma qualcuno dice l'abito talare, vabbè l'abito talare è il prete, l'abito talare comunque per esempio giusto, la tunica la lasciamo tunica. Perdere, siete dei miscredenti che calpestate ogni tradizione, cioè veramente una no, ma hanno suggerito io ho detto così, è arrivato l'SMS, la tunica non è no, ma qua è la tunica è un film in costume degli anni 50, la tunica tanto il Dio benedetto vabbè non si sa, c'è chi ci ha scritto non lo so, non si chiama tunica, si chiama talare, proprio talare, o la tonaca, qualcuno la tonaca. No, la tonaca è una tonaca. La tunica. Aiutateci. No, ma poi vedete, questi voi che siete in ascolto, capite il relativismo, e dire ma non si sa neanche come si veste, ma chi è questo? No. Capite, Milan filtra in maniera sediziosa. Ma no, io ho fatto i salesiani, quindi però non lo so, è la mia ma ignoranza. È per quello, è una reazione a quel modello. Va bene, parliamo di fisco. Nel nostro sondaggio, il fisco, l'agenzia delle entrate che vi bussa la porta, vi scrive le lettere, vi chiede gentile contribuente. Che vi abbatta la porta. Voi avete fatto delle spese non consone al vostro reddito, dovete darci una spiegazione su questo. Ma fatti un po' i cavoli tu. Che ne pensate? È giusta questa politica dell'agenzia delle entrate? Questo vi chiediamo tra poco. 24 mattino 8:33 minuti. Allora, prima del nostro sondaggio abbiamo scatenato Oscar Giannino, abbiamo scatenato un inferno di messaggi di sacerdoti sacerdote ci ha scritto, ma no, certo, ma la notizia è che i sacerdoti ascoltano Milan, ma anche ascoltano te, ma io sono fiero di questa cosa. Allora, il sacerdote che ci scrive dice, ci si chiama esattamente talare. Non tunaca, tonaca, no, tinaca, che non tunaca, come dicevi tu. Qualcuno ci ha scritto che veste, tenaca. Cioè, tra l'altro è la talare, no? La veste talare papale o l'abito pontificio, quindi tirare per la talare, no? Fa un po' allitterazione. Sì, c'è chi dice il piviale, ma quello è un mantello. No, quello sono parti dell'abito papale. O l'albero. l'alba, la stola, la casula, poi c'è il pallio che è un cordone simbolico, uno dice tirare per il pallio, sì, vabbè, per il pallio, questo certo. Stiamo parlando, non siamo impazziti, no, ma come vedete è sempre la mancanza di rispetto verso la sua santità, questo che evoca, ma da parte di chi? Ma da parte di chi? Tirare per il pallio, ma che stiamo scherzando? Ma è come dire, perché dicevo, è come la stampa che ha arruolato il Papa nel fronte antireferendario, ma appunto, ma senza vergogna l'informazione, era quello che vi riferivo, senza, hai mai visto, hai visto il manifesto oggi in prima pagina che mette una donna con i seni nudi, ecco che bellezza, e sopra anche il Papa dice di con i seni nudi il Papa, capisci? Viva il Vabbè, Pride. Dobbiamo parlare Lady di fisco Gaga. Nel nostro sondaggio. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Allora, come avete capito, Oscar Giannino è qui uno degli ospiti. Il tema del nostro sondaggio è questo: il fisco che scrive ai contribuenti. Caro contribuente, lei spende più di quanto guadagna. Lei ha fatto delle spese non consone al suo reddito. Ci vuole spiegare perché? Che ne pensate di questo modo, di questa politica dell'Agenzia delle Entrate? Siete d'accordo oppure no? Insieme a Oscar Giannino voglio salutare il professor Emiliano Brancaccio, che insegna economia politica all'Università del Sannio. Professor Brancaccio, buongiorno, eccoci qua. Buongiorno a voi. Senta, vorrei partire da lei perché so che così poi Giannino qua affila le armi. No, e poi affila la sua, le armi, no. Professor Brancaccio è una persona straordinaria, io spero di poter essere annoverato, non dico tra le persone di cui è amico, ma insomma di quelle che comunque stima e rispetta, io lo rispetto e lo stimo, è sempre stato così. Professor Brancaccio, la cosa è reciproca. Ma infatti, professor Brancaccio, che ne pensa? Intanto devo dire che il 76% dei nostri ascoltatori però dice sì, il fisco fa bene, insomma bisogna controllare, se uno spende troppo, si compra il panfilo e guadagna 5.000 euro al mese, c'è qualcosa che non va, è giusto professore? E io mi accodo ai sondaggi, guardi un po', nel senso che l'accertamento fiscale del reddito basato sui consumi direi che in linea di principio ha una sua ragionevolezza, date condizioni potrebbe anche funzionare, mi permetto però di dire una cosa, cioè che sul piano della efficacia occorre sospendere il giudizio, perché noi sappiamo che strumenti di accertamento come questi sono stati adoperati in passato e bisogna riconoscerlo, diciamo, con risultati non particolarmente brillanti. Teniamo presente che questa della efficacia è un punto delicato, perché questo è un paese diseguale, ce lo dicono gli indici internazionali di disuguaglianza, e il rischio è che sia diseguale anche nel momento dell'accertamento fiscale. Faccio un esempio, noi sappiamo bene che ad esempio Equitalia sta intervenendo con una certa risolutezza anche su contribuenti, sì, diciamo marginali, talvolta sì, addirittura situati ai margini delle soglie di povertà. Mm. E diciamo che questo strumento di accertamento fiscale di cui stiamo parlando stamattina non è che in passato sia riuscito a colpire soggetti che poi effettuavano consumi tramite prestanome o tramite società di comodo. Quindi dobbiamo un attimo, è fallace un po' come strumento, è fallace anche come strumento. Diciamo che abbiamo esperienze non brillantissime in passato, oggi il Ministero e l'Agenzia delle Entrate ci assicurano che è stato molto raffinato, dobbiamo verificare gli effetti. Mi permetta però di fare una provocazione costruttiva a Giannino, sì, e agli ascoltatori. Io vorrei far notare che nel momento in cui il governo nazionale sceglie di accodarsi alla logica di politica restrittiva europea e quindi per esempio decide di perseguire l'obiettivo, a mio avviso deleterio, del pareggio di bilancio nel 2014, e beh, poi è abbastanza naturale che comincia a intensificare gli accertamenti fiscali. Sì. Questo perché lo dico? Perché chi non se la sente di criticare questa logica della politica di bilancio, ma poi, come dire, non può mettersi a criticare l'intensificazione degli accertamenti fiscali, perché diciamo che dall'una cosa consegue l'altra, inesorabilmente l'altra. Allora, ha messo già dei bei temi per Oscar Giannino. Oscar, già anche sul Sole 24 Ore sono arrivate mail di lettori, Sole 24 Ore, da ieri, dall'altro ieri annunciato questa cosa con il gentile contribuente, sono arrivate mail di chi parla di stato di polizia tributaria, già con le tassazioni che ci sono in Italia, ci vengono anche con questi metodi impositivi, queste violenze a dire si presume che tu sei un evasore fiscale, quindi datti una regolata. È davvero così? Oppure il fisco dice, ma insomma qui tu guadagni tot, hai fatto queste spese evidentemente esagerate, non consone a questo reddito, insomma ci vuoi dare una minima spiegazione di come sia possibile questa cosa? Ma io non avrei niente in contrario. tranne fare due osservazioni. Primo, io sono d'accordo sul fatto che quando si abbraccia il rigore, come dice il professor Brancaccio, per conseguenza poi ecco l'intensificazione di tutti gli strumenti. In questi anni abbiamo assistito sotto il governo del centrodestra a una specie di messa in berlina di Visco. Vincenzo Visco era stato dipinto come, no, il tenebroso Dracula a cui Tremonti non voleva dare l'Avis in gestione, e poi in realtà il giro di vite è stato ancora più impetuoso e devastante. Singolare questa cosa, lo dico con spirito di osservatore e quindi per non farmi tacciare di essere buono o cattivo verso il governo. Questo è un governo che ha scatenato l'Agenzia delle Entrate ed Equitalia, secondo me ha ragione Brancaccio, in maniera priva di criteri prioritari rispetto alle fasce di reddito, e questo è un male per un paese che soffre gli effetti della crisi. Secondo, mi tocca osservare, rispetto a questo redditometro, la lettera che arriva non è l'inizio di un accertamento induttivo, è una specie di comunicazione, è un consiglio, in bonus, dire. Per esatto, così dire, esatto. Cioè ti dà di gomito e dici ma sarebbe meglio che tu iniziassi a rifarti ti invita conti. A stare all'occhio, va bene, però va bene. Piccolo particolare, primo, come sempre, quando questo nuovo redditometro si è messo a punto era stata promessa una modalità esplicita attraverso cui l'Agenzia delle Entrate ci avrebbe informato su quali erano i criteri con cui iniziava a mandare le lettere, cioè come li sceglieva territorialmente, con quale marginalità per fascia di reddito, esattamente uno dei punti che toccava a Brancaccio. Naturalmente non lo Stato e l'Agenzia delle Entrate, che doveva essere una circolare, si sono ben guardati di dirci quali criteri seguono, e questa cosa a me, tanto per cominciare, non piace. Che criteri dovrebbero, secondo te, che criteri stanno seguendo? Nella disposizione di legge in cui c'era il giro di vite sul redditometro si diceva che i criteri dovevano essere territoriali, per fasce di reddito, per tipologie di occupazioni, insomma, per renderci chiaro. Beh, immagino che lo manderanno a qualcuno che non che lo sappiamo. Intanto non lo sappiamo. Per esempio, pressoché automatico, per chiunque abbia comprato una casa, qualunque sia il suo reddito, e anche se ha attinto a risparmio, eccetera, lo riceverà da quello che si capisce in quello che sta facendo. Quindi capisci che per tanta gente. Poi, seconda cosa, per essere chiari e dare un'informazione a chi è a casa, siccome non è l'inizio, lo Stato si è impegnato a dire che non è l'inizio di un accertamento sintetico, la mia ferma assoluta certezza e dare un invito a tutti: guardatevi bene dal rispondere, prendete questa lettera, leggetela, tenetevela da parte, tenetevela da parte, ma non rispondete, perché primo, qualunque cosa voi comunichiate all'Agenzia delle Entrate dovete ricordare che non ha alcun rilievo nell'accertamento sintetico, se seguirà alcun rilievo, quindi è inutile che voi naturalmente chiedete al vostro commercialista, non vi fidate di me, certo. Però è così. Anche questa cosa mi piace poco, perché a un certo punto, se è una comunicazione in bonus, sarebbe bene che poi chi scrive e dice giustifica valesse la faccenda. Non lo so, quindi, questo professor Brancaccio è giusto, cioè la vede Oscar come una questione in bonus, però insomma non gli piace questo metro, non gli piace, non dovrebbero rispondere i contribuenti, professor Brancaccio? No, ma se vogliono rispondere, basta che sappiano che non vale niente la risposta. Il consiglio secondo lei è una lettera che insomma così può lasciare il tempo che trova e uno No, guardi, io non entro nel merito poi della dialettica tra il contribuente, il commercialista e l'Agenzia delle Entrate, perché non ne sono nemmeno capace. Mi permetto però di fare un'osservazione di carattere più generale. Io penso che diciamo, al di là poi delle scelte del contribuente di come comportarsi, io penso che su questa questione dell'accertamento della base imponibile del reddito effettivo del contribuente, noi qui bisogna essere massimamente rigorosi, soprattutto in questo paese nel quale l'economia sommersa, e la cosa è collegata, si aggira intorno a un quarto del prodotto interno lordo, cioè molto al di sopra della media europea. Bisogna essere estremamente rigorosi sull'accertamento dei redditi effettivi, sugli strumenti e sull'efficacia degli strumenti bisogna discutere, ma bisogna esserlo. Io vorrei pure ricordare che questo rigore negli accertamenti che io sto invocando stamattina non è mica un'istanza necessariamente socialdemocratica o addirittura marxista. Non è di stampo sovietico, come ci scrive qualche ascoltatore via SMS, cioè di polizia tributaria, di stampo sovietico, non è questo, lei dice. Eh beh, la cer- certezza della base imponibile, che io ricordi è sempre stato un obiettivo classico dei liberali. Sì, sì, su questo hai perfettamente ragione. Allora, infatti il disastro di questo paese è l'incertezza della base imponibile, perché lo Stato si riserva di contestarti a suo modo la tua cifra d'affari, l'imposta dovuta, quello che sia, e poi se lo prende pure in tempi esecutivi che naturalmente non sono quelli con cui però ti paga. Però ieri, Oscar, su questo abbiamo parlato, poi voglio farti una domanda, perché tu dici questa lettera è una lettera che presume che tu Oscar Giannino, sì, se la ricevo, tu Alessandro Mina se la ricevo, tu Emiliano Brancaccio, tu sia un evasore. Ma su questo ho una domanda. Prima però vorrei dare spazio a Guido da Torino, che ci ha chiamato, gli ascoltatori all'800 24 00 24. Guido, buongiorno. Buongiorno dottor Mina, buongiorno dottor Giannino e a tutti gli altri ospiti. Io la ringrazio, c'è già il dottor Giannino che difende noi poveri contribuenti vessati da uno stato borbonico. Quindi non dirò molto, io dico solo anche perché che ha già detto molto, insomma la sua posizione è chiara, ecco, dica. Ecco, sono d'accordo, sono dei borboni anche quando i ministri sono nati a Sondrio, questo è il punto. Uno a caso ha detto Guido. Comunque voglio dire, se parliamo di massimi sistemi, mi va bene un sistema come gli Stati Uniti, in cui ti chiama il fisco e ti dice: hai ricevuto $5,000 sul tuo conto, dimmi come li hai avuti, e tu dici: me li ha mandati lo zio dal Brasile. Benissimo, non ti faccio niente perché è un regalo. Però poi, se la volta successiva succede, ti dicono: no, questo è un reddito e bene finito. Da noi invece ti mettono in galera, ovvero ti fanno pagare, non sai spesso nemmeno bene perché, spesso il commercialista poi ti consiglia: ma meglio pagare perché poi insomma in fin dei conti c'è. Quindi la certezza è una cosa che è al di là da venire. Va bene, grazie Guido. Io sono o blanco o nero, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Allora, fa bene questa agenzia delle entrate a scrivere: gentile contribuente, lei ha speso più di quanto il suo reddito farebbe presumere possibile, e quindi si dia una regolata. Oscar, io vorrei chiederti questo. Ieri tu hai detto: si presume, se uno riceve questa lettera, si presume il fisco sta dicendo che io sia un evasore. In realtà l'approccio potrebbe essere anche questo: non è che si presume, ma è una certezza, un dato di fatto, che in Italia siamo a 100 miliardi, secondo stime più recenti, 125 miliardi di evasione fiscale all'anno. Questa è una certezza, non è una presunzione. Poi certo non si sa chi nei dettagli, bisogna scovare chi nei dettagli. No, è una presunzione anche questa, però è una presunzione ragionevole. È una presunzione ragionevole, insomma. Cioè l'Istat dice che è 17%, poi vabbè, tutte le stime sono che ci sia una sacca di evasione fiscale. Chiamiamola sacca, molto consistente. È una certezza. E allora perché dire, prenderla, come dire, di punta? Dice: perché l'agenzia del fisco ce l'ha con me, Oscar Giannino, con me, Alessandro Milan, con il contribuente, insomma. No, che ce l'abbia contro i contribuenti l'agenzia delle entrate già mi preoccupa ancora di più, perché l'agenzia delle entrate contro i contribuenti deve essere uno strumento evasori fiscali, a tutela dei contribuenti, non per perseguire i contribuenti. Quindi non ce la deve avere proprio con nessuno. Ma i contribuenti, cercare gli evasori. Ma i cercare gli evasori, ma su questo siamo tutti d'accordo. La questione di fondo è che l'evasione italiana è molto aumentata, perché il prelievo fiscale italiano è molto aumentato in pochi anni rispetto alla media degli altri paesi avanzati. Quindi io non credo affatto alla tesi che gli italiani siano anomici, siano distruttori del consorzio civile, se ne fottano e freghino gli uni con gli altri in piena più tasse gioia. Uguale. No, il problema è non solo più tasse, perché questa è un'approssimazione radicale persino per me che sono liberista. Il problema è qual è stata la rapidità in cui si è verificato il grande aumento della pressione. Da noi è stata molto rapida la faccenda, cioè in una sola generazione, meno di 20 anni, 17-18 anni, noi abbiamo aumentato il prelievo di quasi 20 punti di PIL, e l'abbiamo aumentato di 20 punti di PIL con un'evasione che cresceva molto, quindi il risultato è che la pressione fiscale non è 43-44%, perché quello ingloba il 25% che non la paga, in realtà oramai è 55-56-58%, cioè percentuali terribili verso chi le tasse le paga davvero. Allora la questione è che in questo darsi dei criteri trasparenti attraverso cui fare la lotta all'evasione, e quindi anche gli strumenti induttivi, gli strumenti sintetici, quelli in base ai quali lo Stato deve dichiarare su quali criteri lui avvia delle ricerche. Ecco, avere la chiarezza di questo è un minimo di legalità e di diritto. A me piacciono, io capisco che questi sistemi siano inevitabili. Quando diventano attuati senza che lo Stato mi dica come li fa, cioè e diventa la questione prendo chi c'è, così produco risultati, e poi aggiungo: quando, come è avvenuto in questi anni, che a me scandalizza e lo denuncio sempre, l'Agenzia delle Entrate nelle sedi territoriali ha iniziato a dare gli obiettivi di budget di recupero su cui si misurano le carriere dei funzionari e dei dirigenti, ecco, allora è come dire ai vigili per strada: più multe fai, più carriera ti faccio fare. Questo principio è non ti sbagliato. Piace, non ti piace. E qui è molto chiaro. Max dalla provincia di Como, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Intanto volevo chiedervi una conferma per proseguire. Il calcolo e quindi il parametro viene fatto sull'ultimo anno di reddito? E sul, queste lettere sono sul 2009. Queste lettere sono riferite al 2009. Ecco, perfetto. Vabbè. Quindi secondo me il costo amministrativo per lo Stato è esagerato, perché basterebbe prendere quello degli ultimi 5 o 10 anni almeno, in modo che si possano scremare. Vabbè, ma ci dica il principio. Il principio le piace o lo trova una invasione? Non mi piace perché su un anno solo mi sembra un po' riduttivo. Insomma, uno può aver accumulato redditi in anni precedenti, insomma, no? Questo sì, insomma, questo poi sì. C'è anche un rischio, diciamo così, di aumento di costi per il contribuente, perché sento già molti commercialisti che consigliano al contribuente di pagare a rate, di fare un finanziamento, un leasing, per far vedere che non ha pagato subito l'automobile piuttosto che un altro bene, insomma, ecco. No, ma per carità, cioè uno potrebbe avere anche avuto €1.000.000 in eredità. La questione del principio su cui stiamo discutendo è il fatto che l'Agenzia delle Entrate ci venga a chiedere se ci venga a chiedere conto del fatto che abbiamo fatto delle spese non conformi e non consone al nostro reddito e quindi al nostro stile di vita. Questo le piace come idea? È giusto? Oppure poi uno, se vuole, risponde, se vuole no, certo, come no, consiglia Giannino. No, ma mi può anche stare bene, voglio dire, se però fosse preso un reddito più ampio, va bene. Va bene. Io grazie Max, vorrei andare professor Brancaccio, come insomma Giannino ci dice, non è che antropologicamente gli italiani sono propensi a non pagare le tasse, non abbiamo niente di antropologicamente diverso rispetto ad altri paesi europei, ma è questo aumento del prelievo fiscale in una generazione di 20% punti percentuale del PIL che ha spinto e spinge anche a evadere. Che ne pensa di questa analisi? Ma che non mi risulta ci siano correlazioni tra carico fiscale da un lato ed evasione fiscale dall'altro. Ci sono paesi caratterizzati da elevati livelli di carico fiscale con un'evasione molto più modesta. Non credo nemmeno che ci siano correlazioni riguardanti il tasso di crescita, diciamo, dei carichi fiscali e il tasso di crescita della evasione fiscale. Io mi permetterei di fare questa osservazione anche ai contribuenti magari diciamo preoccupati per questa ulteriore intensificazione degli accertamenti. Qui bisogna ricordare sempre una cosa, magari un po' tediosa, un po' noiosa, ma bisogna ricordarla. L'Italia è caratterizzata dal più alto carico fiscale sul lavoro dipendente. Nel 2008 il peso dei carichi fiscali sul lavoro dipendente eccedeva la media europea di 25 punti percentuali, e questo è dovuto anche al fatto che questo è un paese in cui obiettivamente l'evasione fiscale è molto alta, il che significa poi che i carichi sul lavoro dipendente diventano pesantissimi. Di questa cosa dobbiamo iniziare a discutere, dobbiamo cominciare ad affrontare. Pagano insomma quelli, Oscar, pagano insomma, i lavoratori dipendenti. È vero, è assolutamente vero, queste sono cose fattuali, quindi non bisogna mai dividersi sui fatti, che in questi ultimi 15 anni la componente dell'IRPEF, l'IRPEF è valsa alle casse dello Stato 168 miliardi di euro nel 2010, la componente del reddito dipendente è cresciuta molto. Però Oscar, scusami, siccome abbiamo un minuto poi ti rubo tempo, voglio dare spazio a Roberto da Milano, perché ci dicono che, leggo, lavora all'Agenzia delle Entrate, è vero Roberto? Buongiorno. È vero. Dica. Ci lavoro e ne sono anche fiero, nel senso che credo di svolgere una funzione sociale fondamentale, e trovo che una radio come la vostra, un giornalista come Giannino in particolare, dovrebbe in qualche modo premetterlo il fatto che svolgiamo una funzione sociale importante, vieppiù in un paese nel quale i cittadini spesso considerano il pagamento delle imposte un'inutile scocciatura da evitare il più possibile. A me, io non mi sento un operatore di Dracula. No, ma questo Oscar Giannino non l'ha detto. Il mio quotidiano non è fatto di abusi, il mio quotidiano è fatto di persone che evadono le imposte chiarissimamente, e il mio lavoro si tratta di recuperare denaro che loro devono allo Stato. È chiaro. Basta con questa storia del cittadino che vede nello Stato un soggetto che... Guardi, abbia pazienza, io la rispetto, ma lei non può dire basta con il cittadino. Lei è al servizio del cittadino e non si permetta di dire basta al cittadino. Il cittadino ha tutti i sacrosanti diritti di pretendere che lo Stato, quando agisce nei suoi confronti con accertamenti induttivi, dichiari precedentemente, con trasparenza assoluta, qual è il criterio per cui viene messo a mirino il cittadino. E questo l'amministrazione con il redditometro, tanto per cambiare, come in mille altri adempimenti, non l'ha fatto. Io non sopporto che un funzionario dello Stato dica basta col cittadino. Il funzionario dello Stato dica io servo il cittadino, tutti noi. Allora, io non volevo finire così. Pensa che oggi, Oscar, è il compleanno del nostro alpino, Peter Bescapè. Ecco, volevo finire così in maniera un po' più placida. È giusto. È il compleanno, auguri alpino, eh? Quanti anni fa? Non lo sappiamo. È un vostro collega, il tecnico. Età indefinita. Niente, non lo sappiamo. Ma le istituzioni non hanno tempo. No. Sono dei valori perenni. Allora, auguri all'alpino. Grazie, Oscar Genino. Scusate, grazie a tutti voi dell'Agenzia delle Entrate. Vi voglio bene, era solo nel merito. Non rimanco di rispetto né a voi né alle istituzioni né allo Stato. Il professor Emiliano Brancaccio, grazie. Oscar Giannino rimane, parla di referendum oggi, è lui la guest star. Telefonate tutti all'800 24 00 24 perché lui vi spiegherà perché voterà. 4? Non voterà? No, io voterò, andrò a votare e voto. Voterà? 3? No. Ecco, è un sì quello contro l'ultimo impedimento. Voto sì, la legge è uguale per tutti. Spiegherà il perché di tutto questo alle 9, tra poco, noi lunedì.